Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Pare che insultare su Facebook sia quasi più pesante dell'insulto a voce. È definita diffamazione aggravata. Pensate un po', è paragonata proprio alla diffamazione a mezzo stampa. Il fatto a cui ci riferiamo è accaduto nel 2010, quando Francesco Rocca, commissario straordinario della Croce Rossa, aveva fatto un post sul suo profilo Facebook e un suo componente, sempre un componente della Croce Rossa in congedo, aveva commentato, infamando ovviamente Francesco Rocca, apostrofando Rocca come parassita del sistema clientelare e cialtrone. Ebbene, la Corte di Cassazione ha detto che sono frasi lesive della reputazione e lo ha multato di 1.500 euro. Non è forse chiaro a tutti che oramai tutto ciò che accade nei social network abbia la stessa rilevanza di quello che accade nel mondo concreto? Però a questo punto ci sarebbe forse la necessità di ristabilire dei ranghi di esistenza. Avete ascoltato, questa è una sentenza della Cassazione di cui abbiamo già spesso parlato. Il reato di diffamazione, di insulto, di ingiuria, di attentato alla personalità di un essere umano, se avviene attraverso Facebook, ha la stessa rilevanza, se non maggiore in certi casi, perché la propagazione dell'insulto, dell'ingiuria, della diffamazione è maggiore rispetto a quanto possa essere una frase, non so, pronunciata in un ufficio, in un bar. Questo dovrebbe far riflettere sul fatto che oramai ci viviamo come se fossimo dei Giano bifronte. Abbiamo una parte della nostra attenzione, della nostra faccia, che dà nel mondo concreto, ancora viva Dio, nel mondo concreto, l'antico mondo fatto di oggetti, di persone che si toccano e di odori, di sensazioni, di cose insomma concrete, e l'altra parte della nostra faccia in un mondo che non è altrettanto concreto ma ha altrettanta rilevanza rispetto ai nostri atti, ai nostri pensieri, alle nostre azioni. Questo cosa comporta? Comporta che a un certo punto cominciamo a stabilire alcuni però paletti rispetto a ciò che passa indifferentemente da un mondo e dall'altro, dal mondo concreto e dal mondo inconcreto. Questo è l'argomento della puntata di oggi. Inizia la settimana della moda. Il giallo è il colore di questa stagione, fresco, solare, mai banale. Nuovi abiti per... Ma di cosa stiamo parlando? La moda ti annoia? Allora, vestiti senza censure. Arrivano le t-shirt della trasmissione più dissacrante di Radio 24. L'imperdibile divisa che ogni militante dell'esercito della Zanzara deve possedere. Scopri come averle su lazanzara.radio24.it. Melog. Cronache meridiane. Infatti bersagliato per le parole shock su Fortuna, la bimba morta 2 anni fa a Caivano, vittima di violenza, le cui foto con boccoli e vestitino rosa stanno rimbalzando sui social per l'improvvisa svolta nell'indagine a carico del presunto stupratore. L'intellettuale 81enne si era detto profondamente colpito proprio da quell'immagine e dal contrasto che c'è tra lo sfondo e questa bambina che aveva 5 o 6 anni ma che si atteggiava come se ne avesse avuti 16 o 18. Questo stridore, aveva detto in puntata, mi fa capire che anche lì si erano un po' persi i punti di riferimento. Corrado Augias voleva dunque sottolineare il ruolo della mamma nel processo di adultizzazione della piccola Fortuna, ma le parole sono state travisate dal web, che ha espresso delusione e disappunto nei confronti dello scrittore. Un utente infatti ha cinguettato: Augias, Fortuna aveva 6 anni e si atteggiava come se ne avesse 16, lui invece ne ha 81 e parla come se ne avesse 800. Vista la valanga di tweet al vetriolo, intervistato da HuffPost, Corrado Augias... Questa è una vicenda ormai di un paio di settimane fa, però è stata esemplare. Corrado Augias, che non voglio qui né difendere né attaccare, mi è totalmente indifferente in questo contesto, aveva espresso in programma televisivo, quindi già mediato, il suo parere su una foto di una bambina, la considerava particolarmente adultizzata. Questo non vuol dire altro che viveva in un contesto sociale che in realtà teneva poco conto della necessità dei bambini di essere tali. Non assolveva nessuno, non giustificava nessuno, insomma, meritava magari una approfondimento diverso, un'elaborazione di tipo diverso. Dopo una settimana di insulti sul web attraverso i social, poi ha avuto una pacata risposta nel suo giornale, su Repubblica, in cui ribadisce il suo punto di vista. Ma perché è accaduto questo? È accaduto questo perché una riflessione non può più avvenire con interlocutori capaci di elaborarla, ma rimbalza immediatamente in una diversificazione di ambienti dove non c'è mai, è impossibile che ci sia, è geneticamente difficoltoso che ci sia la medesima capacità di pacato dibattito, di possibilità di elaborarla, di mettere in campo tutte le possibili opinioni o punti di vista. Improvvisamente Augias è diventato uno che giustificava l'assassino di una bambina, come alla stessa maniera i magistrati di vecchia generazione giustificavano lo stupro delle donne semplicemente perché erano appariscenti o avevano comportamenti disinvolti. Come si ovvia tutto questo? Ma è difficile, occorre una grande capacità di elaborare e comprendere quella che è la cultura digitale, che è quello che avviene in questo inframondo che ormai fa parte del nostro mondo a tutti gli effetti. Sono 30 anni che ci siamo dentro, più o meno tutti, e in questo momento ci sta dentro tutta l'umanità. La fase ultima, la fase del touchscreen, la fase in cui entrare nel mondo laterale è facilissimo, basta scorrere i polpastrelli su un'applicazione e si è infinitamente espansi dentro questo mondo. Fa sì che occorra mettere, non voglio dire alcuni paletti, che è un termine molto brutto, perlomeno alcune regole vanno stabilite, come qualche settimana fa facemmo una trasmissione dicendo che serviva ristabilire una sorta di galateo per l'uso degli strumenti di interconnessione mentre viviamo ancora calati nella vita quotidiana, cose banali, non scambiare lo smartphone per una posata, tenerlo sempre sul tavolo, avere attenzione quando si comunica con altre persone che abbiamo di fronte gente in carne ed ossa e via dicendo. Anche rispetto al rango dell'esistenza, del valore del dibattito che c'è a rete, bisogna forse farsi qualche domanda. Andrea Rossetti, buongiorno. Buongiorno, sono Gianluca. Andrea Rossetti è professore di filosofia del diritto all'Università di Milano Bicocca, dove insegna anche informatica giuridica. Ti pongo questa domanda che sembra un po' complessa, ma mi aiuterai a sviscerarla. Da una parte dobbiamo avere consapevolezza che il reato che avviene nella dimensione parallela ormai ha lo stesso valore, quindi la dimensione parallela potrebbe avere rispetto ai nostri doveri, ai nostri diritti, lo stesso valore della nostra vita concreta. Però quello che accade là, il rimbalzo rispetto alla realtà che classicamente abbiamo sempre considerato come tale, può essere sempre considerato come qualcosa di effettivamente reale, efficace e degno di attenzione? Beh, allora, che sia reale alla fine non c'è dubbio, no? Come mostra appunto il caso che citavi tu di qualche tempo fa di Augias. Il problema appunto è che quando un evento viene rappresentato, o meglio, la rilevanza di un evento dipende molto da come viene rappresentato in rete. Tutto sommato un caso come quello di Augias è partito perché la maniera in cui è stato rappresentato è stata molto ecastica e efficace, e tutti coloro che l'hanno ripresa, hanno ripreso il caso, per essere più efficaci hanno estremizzato ovviamente la posizione di Augias, che francamente, io l'ho guardato poi il video, era chiarissimo quello che diceva oggi in quel contesto. Però appunto c'è questo fenomeno di polarizzazione tipico in rete, no? Io per ottenere più attenzione cosa faccio? Estremizzo un po' l'opinione di quello che mi ha preceduto, e così alla fine quello che noi sosteniamo diventa magari molto lontano da ciò che è ragionevole. Quando è sufficientemente diffusa poi la notizia, quando è sufficientemente virale, molto spesso ci si mettono i media tradizionali che la riprendono dalla rete. E a questo punto il rimbalzo è veramente in qualche modo diabolico, no? Perché ognuno ingigantisce ciò che dice l'altro, insomma. Ecco, questo è proprio il meccanismo di cui volevo parlare, Andrea. La facezia di rete, l'estremizzazione di rete, la battaglia di fuoco che avviene in rete molte volte per banalità, facezze, con tutta quella serie di figure ormai classiche, il troll, colui che si crede chissà chi, il grammar nazi che ti corregge le virgole, quello che ti dà dello stupido soltanto perché esisti, quello che gli... cioè c'è tutta una serie ormai di figure classiche che contribuiscono all'amplificazione, all'esplosione. Però molte volte anche i media, diciamo, del mainstream, della lettura ufficiale e ufficializzata della realtà, o per carenza di notizie stuzzicanti, o per orvacui di pagine, o perché considerano che sia veramente qualcosa di stimolante, di interessante, lo riportano nei giornali. E quando diventa il titolo di un giornale di carta, che possiamo anche dire che è vetusto, che è antico, che è obsoleto, quello che era semplicemente il tweet di un qualsiasi personaggio che si muove soprattutto in rete, improvvisamente esplode e incide fortemente sul reale. Ecco, è su questa sorta di alchimia perversa che ci si gioca la necessità di dover ridare delle regole. Sì, sicuramente, ma insomma, succede anche in una città piccola come la mia, no? Spesso le notizie che vengono riprese dal giornale locale sono notizie che sono apparse qualche giorno prima in rete, l'erba alta piuttosto che il cartellone che non ci deve essere, per carità, cose minime. Però effettivamente sembra che in molti casi manchi la necessaria mediazione giornalistica in questo caso, no? Dal momento che di questo argomento si parla in rete, allora questo argomento deve essere rilevante. In realtà io credo che in molti casi sarebbe necessario appunto fermarsi un attimo a riflettere. Non è tipica del giornalista, insomma, questo atteggiamento. Direi che tutti noi, quando siamo in rete, abbiamo la tendenza a diventare dei giustizieri in qualche maniera, no? A voler stigmatizzare in maniera molto forte comportamenti che noi riteniamo sbagliati. È uscito recentemente un libro di uno scrittore, di un giornalista inglese, John Ronson, che in italiano ha proprio come titolo I giustizieri della rete, che mostra di alcuni casi di vite letteralmente rovinati per un post sbagliato, per una foto, per un commento infelice fatto ad una foto. Perché il potere in realtà che noi abbiamo come pubblico, come commentatore di Facebook, è un potere molto grande. Ma guardate, il libro è davvero interessante, perché ci sono vite letteralmente rovinate, cioè persone che hanno dovuto dimettersi dal lavoro, abbandonati dalla moglie, per cose che, guardate in un'altra prospettiva, per cose che se non ci fosse stata la rete non sarebbero mai arrivate all'attenzione di nessuno. Ma anche in alcuni casi, insomma, la battuta infelice riconsiderata e contestualizzata magari non sembrava così infelice come era. Diciamo Andrea, che noi viviamo in un paese in cui c'è una notevole faccia tosta da parte anche dei personaggi rappresentativi della politica, dello spettacolo, del pensiero, che piuttosto che essere rovinati magari diventano dei personaggi. Non voglio fare nomi di politici, perché è un momento in cui dobbiamo avere la delicatezza istituzionale di non farne, però devo dirti che veramente non esisterebbero più oggi certi uomini politici se non ci fosse una volta a settimana un programma su Re 3 con un blogger Zoro che riprende tutte le loro fancazzate scritte durante la settimana e le glorifica. Indubbiamente i politici attuali hanno completamente disintermediato l'ufficio stampa, no? Mentre prima ogni dichiarazione pubblica veniva in qualche modo filtrata o comunque meditata un ufficio stampa, quindi tendenzialmente da una persona o da un gruppo di persone che di mestiere fanno comunicazione, adesso invece il politico si sente appunto autorizzato a twittare o a mettere su Facebook quello la prima cosa che gli passa per la mente. Anche qui in realtà non è un vantaggio questo, no? Non è una maggiore trasparenza, non si racconta quello che davvero pensa del politico, ma semplicemente una maniera di fare politica che ha perso anche qui la capacità in qualche modo di filtrare le reali esigenze delle persone per appiattirsi sulle forme di gentismo e di populismo che adesso vanno così di moda alla fine. Ecco, io volevo introdurre il secondo ospite che ho tenuto fino a questo momento silente solo perché ascoltasse l'inizio della trasmissione, poi avrà ampio modo di esprimersi in seguito. Andrea Bacchesi, buongiorno. Andrea Bacchesi, l'abbiamo già avuto come ospite, è fondatore e CEO di Reputation Manager, che è una società leader in Italia nel mercato della web intelligence, che si occupa appunto dell'identità digitale delle aziende, della reputazione in rete. Ha scritto recentemente un libro, La tentazione dell'oblio, guida pratica al diritto dell'oblio, edizione Franco Angeli. È d'accordo innanzitutto su quello che stiamo cercando di affrontare noi, Bacchesi, che dare delle regole è impossibile nel mondo della rete, mettere dei paletti è una bestemmia, che però bisogna cominciare a dare almeno strumenti culturali per cercare di comprendere quello che accade nei diversi passaggi, nell'osmosi fra mondo dell'informazione, della esistenza ufficiale che abbiamo sempre conosciuto, e quello che accade in rete? Io francamente temo che dovremo cambiare approccio, nel senso, noi maneggiamo questi dati quotidianamente e ogni volta che sento casi come quelli che stiamo descrivendo mi vengono in mente i legionari romani la prima volta che hanno affrontato gli elefanti da guerra. Erano attoniti, non sapevano esattamente cosa fare. La questione è esattamente la stessa. Si sta pensando di affrontare la tematica del dialogo con la rete come se fosse un media tradizionale. toccandolo con mano tutti i giorni, ci rendiamo conto che non è dialettica la rete, è un'onda emotiva, semplificatrice. Ci sono degli argomenti che per loro natura sono esplosivi e le persone leggono poche righe e giudicano, quindi va proprio trattato in modo diverso. Con le regole sarà molto difficile risolverlo, bisogna proprio cambiare paradigma di comunicazione ora che siamo in un'era bidirezionale. Allora, fermo un attimo, perché devo dare un secondo la linea alle informazioni della borsa. Ci ha dato subito un assaggio di quello che può essere un dibattito molto interessante. La rete non ragiona secondo i nostri sistemi logici di affrontare la realtà. La rete è emozionale. La rete esiste, la rete influenza comunque la nostra vita, la nostra esistenza, la nostra reputazione. Tra qualche istante sentiremo con Andrea Barchesi quale può essere un approccio concreto e realistico rispetto a questo mondo che non possiamo certo pensare di contenere o di regolare secondo i sistemi, le leggi, i regolamenti che abbiamo sempre conosciuto nella nostra concreta e tradizionale vita reale. Quale sarà il futuro di Milano e di Roma e Torino, Napoli, Bologna? Fino al 29 maggio non perdere la programmazione speciale di Radio 24 per le elezioni amministrative. Reportage, interviste, inchieste e approfondimenti quotidiani dei nostri inviati per capire, confrontare, interrogarsi e scegliere chi guiderà le nostre città. Da Roma a Milano, passando per Torino, Bologna e Napoli, viaggia con noi verso le elezioni più discusse del 2016. Segui le amministrative di Radio 24. Dai valore al tuo voto. JP Morgan Asset Management vi presenta. Amore. Amore. Amore. Amore. Amore. Amore. In quanti modi possiamo dire la stessa cosa? E cosa succede quando una parola assume un significato diverso da quello che volevamo? Dipende tutto dalla nostra voce. Voice Anatomy, un programma di Pino Insegno, io, in onda tutte le domeniche alle 14.30 qui su Radio 24. Ah, dimenticavo, lasciate un messaggio alla nostra voice box 828 12 12. Potreste scoprire di avere un futuro in uno dei nostri mondi. Ascoltaci anche in digital radio. Melog. Cronache meridiane. Un video per denunciare la violenza subita, l'ultima le ha causato un occhio nero e alcune ferite. Questo blogger di 26 anni di Dublino, madre di un bimbo di due che viene mostrato dietro di lei, ha deciso di raccontare quanto le sta accadendo. L'ex fidanzato e padre di suo figlio l'ha picchiata più volte. È stato l'amore della mia vita, dice parlando del loro rapporto durato 3 anni, aggiungendo poi che l'ultima aggressione subita è stata preceduta in passato da altre. Lo scorso anno mi ha spaccato la testa ad un evento e mi ha fatto... Questa è un'altra metodologia di captazio di esistenza nella rete, mettere una foto scioccante, far vedere un volto tumefatto, mostrare qualcosa che segna sulla carne. L'ha fatto un artista di Los Angeles, anche questo qualche settimana fa, che aveva realizzato un'opera con Donald Trump con un pisello piccolissimo. Questa opera era stata abbattuta per un milione di sterline a Londra, era diventata nota per questo, ma un giorno ha incontrato per strada un sostenitore di Trump e gli ha fatto un occhio nero. Lei ha messo la foto con l'occhio nero in rete, è diventata subito un personaggio, è diventata un'opera di arte concettuale con la foto di lei picchiata. È stato un colpo durissimo verso comunque l'opinione generale vedere un atto di violenza radicalizzato in un occhio nero, una ragazzina fragile con i capelli corti che sembrava una bambina. Questo tenderebbe a confermare quello che ha ipotizzato poco fa Andrea Barchesi, ricordo, fondatore SEO di Reputation Manager, che è una società che si occupa appunto di web intelligence e di identità digitale delle aziende, ha anche scritto un libro, La tentazione dell'oblio, che è proprio una guida pratica per riuscire a affermare il proprio diritto ad essere dimenticati quando noi abbiamo tracce di noi in rete che non giudichiamo giuste e gradevoli. Riprendo il discorso con lei, Barchesi. rinforzato da questi esempi che abbiamo fatto. Lei ha detto la rete è un altro mondo in cui vale l'emotività, vale l'impatto, vale il pugno in faccia, quindi è inutile pensare di portare strumenti di approfondimento e di elaborazione in rete. Ma allora le domando, tutta la politica che vede la rete come un luogo privilegiato, una sorta di nuova agorà, un luogo in cui si esprimono i cittadini e si esprimono in maniera diversa anche delle indicazioni comunque riguardo le scelte della politica, è tutta una grossa illusione? Ma allora sostanzialmente c'è del vero, però va considerato che dobbiamo ripartire da un passo indietro. Non abbiamo più una comunicazione uno a uno, come nel caso dei media tradizionali, ma dobbiamo partire dalla psicologia delle folle. L'agorà è un termine perfetto, un agorà vero, un agorà in cui quando diciamo qualcosa, se è troppo razionale, complesso e così via, si perde, rumoreggia. Pensiamo ai grandi leader di ogni tempo, sono persone che riuscivano a tenere in pugno la folla, ma come lo facevano? Con delle immagini forti, con delle emozioni, non facevano dei razionalismi complessi e contorti. Quindi è dalla psicologia delle folle e dalla fine dell'Ottocento che dobbiamo ripartire, rielaborandola in una nuova versione, perché questa folla è una folla. Certo che esista un populismo buono, sembra quasi difficile pensarlo, però è esattamente questo. Sì, il populismo, cioè diciamo che la folla è capace di esprimere sentimenti molto bassi come sentimenti molto alti e allo stesso tempo giudice istantaneo. Il caso presentato prima è perfetto, è l'emozione che arriva. Se lei avesse spiegato in una lunga lettera la sua vicenda non avrebbe colpito. Il fatto vero è che questi fatti sono tra virgolette rari numericamente rispetto a tutte le occasioni possibili che il mondo oggi ci offre. Noi però bisogna cominciare a pensare che questo comunque deve fare scuola, bisogna cominciare a capire, perché sennò altrimenti avremo una sorta di orda sconnessa che pian piano, come in quei film, come un blog, un blob praticamente si mangia tutta la realtà. Ecco, dove si comincia a costruire una necessità, una possibilità che è necessaria comunque di interpretare, anche se il termine sembra brutto, in qualche maniera di dirigere? Se io ho un'idea, ho una maniera di esprimermi, credo in qualcosa, devo comunque riuscire a fare in modo che questa cosa galleggi nella maniera giusta, in questa nuova possibilità che ha il mondo di esprimersi. Sì, ma è molto più complesso, bisogna cambiare il registro linguistico. Abbiamo citato in apertura un caso, citiamo anche il caso Barilla, in cui ha detto una cosa che in un ufficio marketing, in una riunione interna, poteva stare. Messa nel contesto, ricordiamo insomma, non voleva estendere la pubblicità alle famiglie non tradizionali, certo. Che esattamente. Gli è costato l'osso del collo praticamente. Esattamente, perché questo? Perché ha sbagliato il registro linguistico. Ci sono delle tematiche che sono esplosive e qualsiasi cosa si dica attorno a questi, oggi praticamente si rischia un'onda emotiva. Il termine è proprio questo, un'onda emotiva. Noi la verifichiamo molto spesso, l'onda emotiva è irrazionale, non sente ragioni. E è difficile anche arginarla, è difficile anche indirizzarla. Una volta fatto il disastro, molte volte chi prova a metterci delle pezze è ancora peggio. Esattamente così, va cambiato, bisogna prendere consapevolezza che siamo di fronte ad una folla che può alzare il soggetto in cielo oppure seppellirlo all'improvviso, va cambiato il registro linguistico, poi bisogna parlare per immagini, bisogna parlare per emozioni e piano piano inserire dei concetti, ma il concetto deve essere di sfondo in questa tipologia di mondo, non può essere un dibattito razionale ad alto livello, perché non funziona così la rete. Certo, chiedo ad Andrea Rossetti, che è in ascolto ancora, professore di filosofia del diritto, e so che sono argomenti che questi lui tratta. Questo farà sì che però dovranno esistere sempre di più delle elite di pensiero che agiranno nascostamente, occultamente, elaborando comunque il pensiero, perché l'umanità progredisce attraverso il pensiero elaborato, non attraverso le radicalizzazioni, e cercheranno il più possibile di affinare strumenti come le ha affinati senz'altro Barchesi, che aiuta le persone a uscire fuori dal gorgo, dal fango. Le aziende, quando sono fortemente colpite, devono in qualche maniera avere la maniera di salvarsi. Ecco, si tratta di mettere a punto le strategie. Ecco, non c'è il rischio di ricreare questo nuovo fenomeno del rafforzamento dell'elite e soprattutto della non trasparenza rispetto alle linee di potere o di guida comunque dell'opinione generale? Beh, allora quello che stai dicendo, Gianluca, è che in realtà tutto continua ad avvenire come prima, no? Perché in realtà da sempre nuove strategie, sia comunicative sia concettuali, sono state concepite tutto sommato da un numero ristretto di persone. I gruppi, gli intellettuali, i filosofi, insomma, sono stati chiamati in vari modi, no? Poi durante sì, ma non davano mai l'illusione alle persone di avere un parere che potevano esprimere e che avesse valore. No. Esatto, la differenza è questa, insomma, no? È un po' il problema di Wikipedia, se vogliamo, no? Cioè l'idea che chiunque possa davvero contribuire in qualche modo all'aumento, all'accrescimento del sapere dell'umanità come specie. Ecco, in realtà no, nel XX secolo tutto sommato di Einstein ne abbiamo avuto uno solo, insomma. Ecco, l'idea che effettivamente chiunque possa realmente contribuire a un dibattito è davvero un'idea che va un po' ridefinita, anche nel dibattito pubblico, insomma, no? Non è che Kant abbia scritto la critica della ragion pura e l'abbia chiusa nel cassetto, però è anche vero che quelli che l'hanno letta nel corso dei secoli, tutto sommato, sono stati un numero limitato di persone. Perché? Perché comunque per parlare sensatamente di certe cose, per contribuire ad accrescere la conoscenza, bisogna avere studiato, avere capito, aver avuto un percorso formativo che la maggior parte dei cittadini non ha. Non è un discorso elitario il mio, è una realtà oggettiva, no, ma soprattutto quello, come dicevamo già prima, quello che bisogna davvero rafforzare è l'istruzione, insomma, perché non dimentichiamolo mai, la democrazia è l'unica forma di governo che si sostiene unicamente se i suoi cittadini sono in grado di condividere una serie di pensieri e almeno una basilare capacità di discussione. Quindi formare le nuove generazioni anche ad argomentare, a vincere la tentazione, no, dell'onda emotiva, della battuta facile, addestrare le nuove generazioni a questo, secondo me è fondamentale, insomma, è davvero molto importante se vogliamo che appunto la rete si trasformi davvero in uno strumento di crescita e non sia semplicemente il luogo dove esterniamo tutti i nostri tiramenti, tutte le nostre lamentele, senza però mai fondarle in maniera realmente razionale. Ecco, questa mattina sono soddisfatto perché ho due ospiti che mi fanno pensare in maniera particolare rispetto alla media, perché mi pongono due stimoli, anche se non è così facile avvertirlo probabilmente per chi ascolta, ma antitetici. Da una parte c'è un intento di risollevare la rete da questa sorta di approssimazione generale che poi genera populismo, poi genera radicalizzazione. D'altra parte, la rete è questo, bisogna avere strumenti per capirla, per comprenderla, bisogna riformulare completamente i nostri parametri se vogliamo in qualche maniera riuscire a difendersi da un punto di vista, quelli possono essere degli attacchi negativi della rete, o in qualche modo navigare in questo mare. Insomma, per navigare in questo mare bisogna ricostruirsi un'imbarcazione diversa, dice Barchesi. Questo mare è navigabile, ma bisogna navigare e allo stesso tempo insegnare alle persone che navigano con noi quelle che sono le regole del buon vivere, dice Rossetti. Tra un istante, dopo la pausa, risentirò entrambi e cercherò di capire poi se esista una soluzione fra questi due punti di vista. Melog, cronache meridiane. Io mi rendo conto che spesso mi raccomandano di fare trasmissioni facili, comprensibili, non troppo astruse, che la gente possa ascoltare rilassandosi, ma quello che stiamo facendo questa mattina, secondo me, è un'operazione di servizio che magari richiede un po' di impegno nell'ascolto, ma si sta definendo quello che è la chiave essenziale del vivere oggi. Le persone che ci ascoltano alla radio sono persone che comunque hanno uno smartphone in mano, che hanno dei figli con i quali sicuramente hanno dei rapporti interconnessi attraverso strumenti di intermediazione che sono gli smartphone, hanno angosce, hanno ansie, hanno amori, hanno problemi, hanno curiosità. Comunque sia, oggi stiamo cercando con due persone che studiano profondamente, fanno della ragione della loro vita, questa difficile equazione di comprensione, visto che noi siamo una generazione intermedia, conosciuto il vecchio mondo, e è calata e si trova a suo agio anche nel nuovo mondo. Probabilmente fra un paio di generazioni questa sarà una riflessione che non avrà più senso, ma oggi ha profondamente senso capire qual è l'equazione di una vita il più possibile attiva, reale, cosciente, presente, in questa sorta di necessità di muoversi in maniera ambigua, perché siamo stati programmati, organizzati a pensare in una certa maniera. A un certo punto, la nostra velocissima evoluzione, il mondo è cambiato. Dobbiamo capire che il mondo è cambiato. Allora, Andrea Barchesi, io le faccio un esempio. Ricordo, Andrea Barchesi ha scritto un libro su queste tematiche, La tentazione dell'oblio, guida pratica al diritto dell'oblio, edizione Franco Angeli. Di questo si occupa da tantissimi anni, è dal 2004, pensate che una data preistorica rispetto alla percezione generale della rete, che lui si occupa appunto di studiare quello che accade in rete e studiare questo difficile rapporto fra vita reale e vita online. La prima cosa che uno fa quando conosce una persona, immediatamente digita, ma proprio un istante dopo, a me capita di farlo proprio nel momento in cui questo magari prende il bicchiere, si beve l'aperitivo, è distratto, fa una ricerca in rete, guarda cosa vede in rete di questa persona. Le prime cose che appaiono sono quelle che ci colpiscono di più. Se uno fa il mio nome vede alcune cose, non sempre sono le cose che io più gradisco. Come si fa a questo punto? Qual è la maniera pratica per avere il diritto di essere rappresentati per quello che noi vogliamo in questo mondo che è così difficile da interpretare, da sondare e da capire? Ma sostanzialmente bisogna risolvere un po', come diciamo prima, un'equazione, bisogna aprire una cassaforte molto complessa. Faccio un esempio concreto, pensiamo al caso Stamina dell'anno scorso. Abbiamo seguito, ci abbiamo messo un anno a combattere l'onda emotiva, completamente irrazionale, sappiamo bene com'è finito il caso, supportata anche da alcuni media. Come si è risolto praticamente, come si possono risolvere, per dare anche una sintesi pratica di come si maneggia questo mondo? Anzitutto bisogna cambiare registro linguistico. Secondo, bisogna andare a capire questo magma e decodificarlo, bisogna trasformarlo in tante strade e ogni nodo, consideriamo che sia una città, è una persona, un influencer. Alcuni sono degli influencer importanti, altri degli influencer a livello volumetrico meno importanti. Che però hanno il loro peso, perché possono diventare l'innesco virale di qualcosa che ci può danneggiare fortemente, se vogliamo. Assolutamente sì, ma è una questione probabilistica. Un influencer più elevato ha statisticamente una maggiore probabilità di creare la scintilla che accende questo magma. Capite, queste strade vanno in qualche modo favorite, quelle che portano la razionalità, quelle che portano l'argomentazione progressiva, e vanno sfavorite, tra virgolette, quelle che invece portano nessuna argomentazione. Ma come nasce l'influencer? Uno particolarmente bravo che ha capito prima degli altri la maniera giusta di muoversi? Ma l'influencer molto spesso si trova ad esserlo senza neanche rendersene conto, nel senso che ha una sua attività, è una persona esperta di qualche cosa e ha una sua platea di seguaci. Chi è d'Italia un grosso influencer, per la sua esperienza, così facciamo capire, ad esempio, qualcuno che lei considera uno veramente forte in rete? Ma allora dipende dai mercati e dai settori. Una delle prime cose da capire sugli influencer è che se lavoriamo, ad esempio, che ne so, nel mondo del farmaceutico, l'influencer del farmaceutico non è sicuramente l'influencer del mondo sociale o dell'etica o del costume. Quindi ognuno conosce i suoi secondo della maniera in cui si rapporta rispetto alla realtà, il lavoro che fa, il suo punto di vista e via dicendo. Un politico avrà paura degli influencer che attaccano i politici, un giornalista dei blogger che ti fanno le pulci su quello che scrivi, qualcosa del genere. Esattamente, esattamente. Un esperto di auto non è così, tra virgolette, permeante quando parla di politica, per quanto abbia un audience. Quindi la prima cosa, che non è affatto facile, questo dà proprio l'idea di come cambia. Il passo è identificare qual è l'universo dei tuoi influencer. Poi bisogna classificare in razionali ed emotivi, bisogna classificarli anche in antagonisti o favorevoli. I razionali vanno in qualche modo aiutati, bisogna creare delle sacche di logicità in questo mondo emotivo, rafforzandoli, dandogli dati, però bisogna trovarli e parlarci. Non possiamo più fare un dialogo di tipo media. Dobbiamo quindi interagire con questi gangli di questo cervello condiviso e in qualche modo dare strumenti a queste parti positive della comunicazione affinché siano loro ad aiutarci a fare le dico in estrema sincerità che occorre una disciplina zen per farlo, perché il carattere, l'esperienza di vita, quello che uno ha di propria autostima, molte volte lo rende molto difficile. Sì, è molto complesso e vanno scelti molto bene. Andrea Rossetti, rispetto a quello che dice Barchesi, è proprio una questione di affinamento, bisogna inventarsi una nuova disciplina, una nuova tattica, una nuova strategia, un'individuazione di figure chiave in un mondo che molte volte non sono le stesse persone che noi ci vediamo davanti. Sì, questa idea di influencer a me è un po' oscura oggettivamente, nel senso che ad esempio io credo rispetto ai miei studenti banalmente, no, di essere influencer, almeno finché non hanno dato l'esame. Finché danno l'esame con te, poi dopo sai che pernacchione, certo. Ovviamente cambiano. No, mi interessa un altro pezzo del discorso che ha fatto l'ingegnere, secondo me, appunto, l'idea che non bisogna pensare che l'utilizzo di strumenti di carattere emotivo che impattino, no, sull'emotività più che sulla razionalità escludano ogni forma di razionalità, no? Tutto in realtà il gioco della retorica, della nuova retorica che si è andata sviluppata nella seconda metà del XX secolo, ci ha resi coscienti del fatto che gli strumenti retorici sono in realtà sviluppano in realtà catene argomentative, sviluppano in realtà argomentazioni che sono argomentazioni soddisfacenti dal punto di vista razionale. Quindi io credo che sia esattamente corretto il discorso che viene nei termini in cui lo fa l'ingegnere, cioè bisogna cercare di favorire coloro che, pur utilizzando strumenti retorici, quello che favoriscono è il discorso razionale, cioè il discorso che esprime tesi, argomenti a sostegno delle tesi, e alla fine è anche disposto al limite a modificare leggermente la sua posizione per aver tenuto conto di ciò che gli altri gli hanno detto. È una cosa, come dicevi tu Gianluca, che è davvero difficile però da fare, eh. Io probabilmente sono il primo che predica bene e razzola male, per carità, però io credo che sia esattamente questa direzione nella quale ci dobbiamo muovere quando parliamo di queste cose, soprattutto con i più giovani, no? Perché il lavoro che fa l'ingegnere è un lavoro in qualche modo di emergenziale, cioè no, c'è un'emergenza comunicativa, arriva e cerca in qualche modo di metterci una pezza. Sarebbe bello se le emergenze andando avanti fossero sempre meno, proprio perché le persone sono più alla base educate a comportarsi anche in contesti apparentemente anonimi, anche in contesti in cui apparentemente si può dire di tutto, in maniera più educata. Proprio, questo penso che avverrà, e con questo concludo perché siamo arrivati alla fine del discorso, ringrazio entrambi gli ospiti, quando tra questi due mondi che noi stiamo valutando ancora come mondi intercomunicanti ma con profonde differenze, non si avvertirà più la differenza. Questo avverrà probabilmente fra un paio di generazioni, forse anche prima, non lo vedremo forse noi nella nostra avventura esistenziale, ma visto che ci troviamo in questa importante circostanza di essere a cavallo, non possiamo fare a meno che fare lo sforzo, come abbiamo fatto questa mattina, di capire, di comprendere, di decifrare e di dare, se possibile, qualche soluzione che non potrà essere che transeunte, visto che questo è un mondo in continua sovrascrittura. Alla prossima!